Game. Ciao, ciao a tutti, siamo su Radio Wombat e io vi dico che oggi proprio siamo nella merda. Fuoco alle polveri. Fuoco alle polveri. Radio Wombat. Ed eccoci qua, buonasera e benvenuti su Radio Wombat, Fuoco alle Polveri. La 64esima puntata. 64esima puntata. Un sacco di puntate. Siamo qui con Glanded Lago. Oh! Abbiamo anche il nostro amico... Come cavolo ti hai chiamato? Ti chiamavano Half Cab. Sì, puntata essere, senza speaker, cioè, o meglio, speaker sì. Di fortuna, tre registi a tenere la baracca. E attenzione, attenzione, noi siamo abituati di solito a regolare i tempi, a dire taglia, cose del genere, a mettere la canzoncina quando la gente non riesce più a parlare. Noi non siamo mai riusciti a parlare, quindi questa qua è la nostra quasi prima volta e viva! Proprio per questo abbiamo invitato un sacco di gente a parlare. Appunto, andremo lunghi con le chiacchiere interessanti a questa girata. Avremo in apertura un'intervista con dei compagni catalani che ci parleranno di un documentario passato in quel della polveriera, spazio sociale, il venerdì scorso, e si parlerà un pochino della situazione attuale catalana e del famoso primo ottobre, del referendum. E proseguiremo poi con altre tematiche. Andremo a parlare del quarantennale della legge Basaglia e con nostre amiche del collettivo di medicina Codice Rosso e di Kille della Balanza. E dopodiché cosa andremo a fare? Andremo a parlare via telefonica stavolta con il curatore di Datarazia, in vista sempre del Festival di Lettura Sociale che si terrà dal 17 al 20 maggio, sempre in quel di Polveriera. E niente, faremo una bella chiacchierata, Datarazia, quindi algoritmi, società degli algoritmi, big data, tutta questa bella robetta. Comunque, non abbiamo sostituito degnamente il nostro amico Tuco. Già! Dicevamo 64, la puntata 64. Come? Come sono 8 volte 8 che noi siamo qua. No. Che vuol dire? come Nintendo 64. Dai, mi piace di più, sì. Già meglio? Ok, vabbè, Mario Kart. Anni 90 style qua. Proprio. Sì, bellissimo. Io farei una cosa, per dare un pochino di ritmo e per non allungarci troppo in chiacchiere che ci saranno, diciamo, a fiumi in questa puntata, mandiamo subito un pezzettino allegro, va bene? Vada. Via. Di Jorge Drexler, un cantatore uruguaiano di cui torneremo a parlare, faccio uno spoiler un po' per le prossime rubriche, e questo è un pezzo standard blues da lui coverizzato, da lui reinterpretato in un bel album, canta in inglese, di solito canta in spagnolo. Via! Nothing's gonna be alright. one big trouble spot, because some have plenty and some have not. Always somebody playing with dynamite. Now I don't worry about a thing, 'cause nothing's gonna be alright. Dai che c'è il festival! Dal 17 al 20 maggio presso la Polveriera Spazio Comune, terza edizione del Festival di Letteratura Sociale. Presentazioni, dibattiti, concerti, spettacoli, banchini ed esposizioni. Con la partecipazione di Alberto Prunetti, Davide Grasso, Marta Fana, Ilaria Agostini, Lello Voce, Edoardo Rialti, Vanni Santoni e molti altri. Programma completo sulla polveriera.noblogs.org. E rieccoci. Oh yeah. Uè. Allora, chi abbiamo? Chi hai dietro di te, dietro le tue grandi ali? Grande non mi ricordo il nome, presentatevi, siamo un sacco di persone. Buongiorno, no, sì, infatti siamo tre, io mi chiamo Paolo. Oh, benvenuti. E tutti e tre eravate presenti al, giustamente all'iniziativa che c'è stata di presentazione del film, del documentario. Sì, infatti questa è un'iniziativa che comincia alcune settimane fa con Maria e Arnaldo, che abbiamo preso un documentario che si è progettato a... Infatti è uscito alla televisione catalana, la TV3, e lo abbiamo preso, abbiamo messo dei sottotitoli, lo abbiamo tradotto tutto e siamo venuti qua a fare a questa presentazione, anche dopo una tavola rotonda con tutti i compagni. Com'è andata? Infatti la parte più interessante, poi la parte interessante alla fine è la tavola rotonda. Sì, esatto, è stata un'esperienza abbastanza interessante perché ci abbiamo incontrati anche con alcuni compagni italiani che erano a Barcellona durante l'1 ottobre per Erasmus o intercambi studentili, questioni varie. È stata un'esperienza molto interessante, perché abbiamo potuto compartire l'esperienza con loro. Perché poi, fra l'altro, se non sbaglio, il documentario è stato girato proprio il primo, durante le votazioni, giusto? Sì, a cavallo del giorno preciso. Si chiamava il documentario 1O, giusto? 1O, primo ottobre. Scusa, non ti sento granché a te. Prova a parlare. No, non sta andando. È lui. Scusate, problemi tecnici su Radio Wombat. Eccolo? Sì, ora? Ora c'è. Ora sì, eccolo. Okay. Scusa, ho bruciato le... Bravo. Imprevisti su Radio Wombat. Ti dicevi, scusami, non abbiamo sentito niente. Sì, quello si chiama 1O del primo di ottobre. È un film documentario in cui racconta tutta la giornata che si era vissuto il primo di ottobre di 2017. Ok, facciamo un minimo di storia, va bene? Cioè, come siamo arrivati al primo d'ottobre? Cioè, facciamo un po' di pre-primo d'ottobre, diciamo. Con fatica. È lunga, con fatica, è lunga, ok. Sì, dobbiamo... 1714. No, dobbiamo cominciare dal 1714. Infatti il primo d'ottobre è un referendum, è una votazione che si è approvata con un... Sì? Va bene? Sì. È una votazione che è stata approvata per... No, c'è, scusate. Prendi quell'altro microfono, scusami. Va bene. Bene. Il primo ottobre dicevi... Primo ottobre è una votazione che è stata promossa, infatti, per il Parlamento catalano. Sì. È stata approvata dopo lunghe negoziazioni tra il blocco indipendentista e l'ha votato soltanto il blocco indipendentista. Quindi quando c'è stata la votazione nella Camera parlamentaria, tutti i deputati spagnolisti, possiamo dire, o non indipendentisti in questo caso, siano usciti dalla Camera. Sì. E va bene, è stata abbastanza polemica per le garanzie che poteva presentare questa votazione, certo. La possibilità della repressione poliziale, e infatti i giorni primi all'1 d'ottobre ci sono stati alcune persone collegate all'organizzazione di questo referendum che siano state messe in galera. Sì. E tutte queste cose. Veramente è stata una situazione abbastanza strana, perché quello che si voleva fare non era una dichiarazione di indipendenza, neanche una grande rivoluzione che si voleva fare. Certo, un referendum. E l'organizzazione proprio del referendum, no? Nel senso, il governo voleva impedire, no? Che si facesse questo referendum. Come è stata organizzata? Cioè, non lo so, immagino sia complicato già gestire un referendum insomma istituzionale, voluto così. Come sono state gestite le urne? Perché non lo so, c'erano immagini delle urne lanciate da delle macchine, tipo, non lo so, insomma, molto movimentato, diciamo, come avvicinarsi al referendum. Non lo so, ci potete raccontare qualcosa dell'organizzazione proprio della votazione? Com'è che si è potuta fare questa cosa? Sì, beh, come il governo spagnolo aveva illegalizzato questa giornata, da primo punto era stato il governo catalano che l'aveva permesso, aveva fatto una legge per questo qua, ma dopo è stata tutta la organizzazione civile che si è organizzata per prendere le urne, per anche giorni prima della votazione per occupare le scuole con gente, così e restare la notte là, così la polizia non poteva entrare e chiuderli. E sì, soprattutto è stata organizzazione forza civile. Ah, e ma pensi, cioè, è legato, diciamo, il fatto di fare il referendum in queste condizioni strettamente con la percentuale di votanti che c'è stata, no? Ha votato il 41%, credo, degli aventi diritto, no? In occasione di quel referendum. Cioè, pensate che cioè, insomma, chi voleva votare no non è andato a votare tendenzialmente, giusto, a quel non riconoscendolo, no? Ma pensate che tante persone anche che volevano votare sì non hanno votato in quella situazione perché è pericoloso per la polizia o per non lo so. Sì. Secondo me, alla fine, con tutta questa repressione che ci ha avuto poliziale, alla fine del giorno tanta gente che prima forse non voleva votare perché non credeva in un referendum in queste condizioni, alla fine è andato soltanto perché forse sono in contro dell'indipendenza, ma sono ancora più in contro del modo come lo sta facendo il governo della spagnolo. Repressione. Quindi perché tu come persona puoi essere completamente in contro dell'indipendenza, ma credere in una democrazia, che questo certo. È il grande problema spagnolo, che con questo referendum non si è comportato come un stato democratico, come dice che e alla fine tanta gente è andata a votare più per il fatto di andare a votare che per quello che si stava votando. Infatti anche c'erano dei voti che dicevano di no, anche ci sono delle immagini di gente con una bandiera spagnola votando e nessuno le diceva niente, quindi alla fine non era tanto un referendum per la indipendenza, ma non che soltanto sono andati quelli indipendentisti, ma alla fine certo. Tutti quelli che credevano nella indipendenza, nella democrazia. Certo, sì, certo. Anche se erano, diciamo, i partiti a favore dell'indipendenza che hanno organizzato, sono stati a favore di questo referendum, la loro fine soprattutto era fare questa giornata perché la gente possa decidere certo. Sì o no, più che fare il voto per il sì, è stata una lotta per il diritto di decidere, votare proprio, di votare, cioè di poterla sì. Fare questo sì questo evidentemente referendum. Ci sono stati meno no, perché molta gente di no non voleva andare perché l'incontro, ma anche c'è stata molta gente che era in contro della indipendenza ma voleva avere il suo diritto a votare. Certo. Giusto un minimo di panorama politico spagnolo per orientarsi, no? Le forze separatiste, diciamo, quelli per il sì, erano Junts per Catalunya, no? Per il sì, che è Puigdemont, no? Sì, infatti ci sono tre partiti sì. Con rappresentazione parlamentare, ma che in quel momento erano una coalizione tra Junts per Catalunya, che adesso è quel partito di Puigdemont, sì. È quel partito più similare a una destra liberale sicuramente, mm-hmm. ma con dei valori fortemente europeisti e democratici, quindi sì, non, sì. È come non è una destra come quella di spagnola. Come quella spagnola o magari come quella italiana, quindi è una destra che è abbastanza vicina alla socialdemocrazia anche. Che faceva la coalizione con Esquerra Repubblicana de Catalunya, che è Sinistra Repubblicana della Catalogna, sì, sì, sì, sì, sì. Che è un partito più socialdemocratico, puramente repubblicano, più vicino alla sinistra, puramente politica. C'è. E dopo c'è la CUP, le candidature d'unità popolare, che questo sì è sinistra rivoluzionaria, è quella. Io penso che è quella che ha aiutato in più all'organizzazione di questo referendum, perché infatti questo referendum non c'era nel programma politico di Junts per sì. Junts per sì nel suo programma politico aveva la costruzione delle strutture di Stato, diciamo. Okay. Junts per sì diceva sì, noi vinciamo le elezioni, cominceremo a costruire questo nuovo Stato che è la Catalogna. E la CUP questo non lo aveva nel suo programma politico. La CUP quello che aveva era dire va bene, se noi vinciamo, la CUP no, non poteva vincere, ma se noi abbiamo la capacità di decisione sul Parlamento, quello che noi faremo è organizzare questo referendum pattato con lo Stato, che sappiamo che è impossibile perché lo abbiamo provato per 18 volte, o magari faremo un RUI, che è un referendum unilaterale di indipendenza, che alla fine è quello che è successo. Quindi l'1 d'ottobre è stato un referendum unilaterale, perché okay, non è stato un referendum pattato con lo Stato. Ok. È stato per un questo, referendum voluto dagli indipendentisti, insomma. Sì, sì, per questo infatti lo Stato ha fatto questa brutale repressione, che come mandare a inviare 10.000 poliziotti spagnoli soltanto alla Barcellona. Questo penso che non sappiamo ancora tutto quello che significa veramente. E voi l'avete vissuta in strada questa? Posso fare una domanda? Sì? Posso fare una domanda? Volentierissimo. Volevo sapere, ma e poi la CUP un po' insomma ha conseguito poi nelle elezioni che ci sono state in seguito all'indipendenza, voglio dire, questo ruolo determinante che ha avuto? Cioè, c'è stato un consenso elettorale, oltre che reale, nel fatto di aver determinato certi andamenti quando ci sono state quelle elezioni? Infatti possiamo fare un programma soltanto parlando della CUP, perché è una realtà politica abbastanza particolare. Quindi è un partito che ha i tempi tanto tanto lunghi, perché la sua organizzazione è così assemblearia. Non è un partito, infatti è una coalizione, ma da tanti tanti tanti partiti. E le scorse elezioni, quelle del 27 di settembre del 2015, la CUP ha riuscito, penso, a 10 deputati. Dopo ne ha avuto 4. Questo si può spiegare per tante cose: non perché la gente non è d'accordo con quello che dice la CUP, ma perché adesso non c'era Junts pel Sì, adesso i due altri partiti si andavano alle votazioni ognuno per la sua banda, diciamo. Ma io penso che è una cosa abbastanza generalizzata, che l'itinerario marcato per la CUP è un itinerario che piace abbastanza all'opinione pubblica catalana. Infatti questo si vede quando parleremo del dopo l'1 d'ottobre. Perché dopo l'1 d'ottobre ci sono state le elezioni in Catalogna, no? In dicembre, giusto? Se non sbaglio, il 21 dicembre dell'anno stesso. Da lì poi com'è andata la cosa? Perché sì, si perde il filo facilmente, perché ci sono stati molti avvenimenti, ecco. Ci potete fare un po' di chiarezza, diciamo, sul com'è andata, i risultati di queste elezioni che ci sono state successivamente, cosa questo ha significato e dove siamo andati a parare dopo, e anche poi magari uno sguardo all'oggi, ecco, a cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi giorni e nei prossimi mesi sul fronte catalano-spagnolo. Beh, si deve dire che queste elezioni si sono fatte perché la Spagna, dopo che si era fatto il referendum e si era dichiarato la indipendenza, aveva, diciamo, illegalizzato la Catalogna, aveva preso tutto il potere della Catalogna, sì, essendo il presidente di Spagna il presidente della Catalogna. E nel trascorso in cui aveva messo questa data del 22, del 21 di dicembre, anche se sono state le detenzioni al capo governo che c'era prima, e molti sono dovuti andare fuori, come è stato il caso più famoso di Puigdemont, e il secondo che e altri politici anche sono dovuti andare in galera. E ma allora è stato non è stato molto democratico, diciamo, sì. Comunque, ma i risultati elettorali, vedendoli, no, praticamente il partito di maggioranza è stato Ciutadans, se non sbaglio, che era per l'unione invece, cioè non separatista. Esatto. È la coalizione separatista che ha vinto, giusto? Cioè è Junts per Sì, no? per la Catalogna, e CUP e RC, no? Giusto. Sì, infatti questi risultati si possono guardare in due o magari tre forme diverse, certo, no? Quelle che, se guardiamo i partiti, ha vinto un partito di estrema destra, xenofobo, neoliberalista, come Ciutadans. spagnolista, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, sì, sì, sì. Se guardiamo per blocchi, il blocco separatista, che infatti non è separatista, è sovranista, quello che richiama il diritto a decidere, tutto questo, o il blocco spagnolista, quello che ha vinto è il blocco separatista, infatti con più botti da quello che ha avuto nel referendum dall'1 ottobre. Quindi una votazione fatta senza delle garanzie che... I spagnolisti dicevano ma questo non va bene perché non si è rispettato niente. Guarda, dopo le vostre elezioni l'ha vinto anche l'indipendentismo. Dopo tutto questo... Ci sono stati più vincitori, insomma, sì. Volendo, però il blocco indipendentista, insomma, sì, ne è uscito rafforzato da queste elezioni o no? Perché se poi hanno messo in galera, cioè insomma, comunque hanno destituito diverse persone, insomma, adesso verso cosa si va? Ora, io una delle ultime notizie che ho letto riguardava che entro il 14 di maggio credo ci sia la decisione, no, per riguardante Puigdemont nello specifico, anche perché è quello di cui si sente di più, si legge di più, ecco, sui siti vari. Ma ora cosa ci saranno? Un'altra lezione? Come si andrà avanti? Altra volta succede che c'è una differenza abbastanza grande tra quello che è la mobilitazione popolare, quindi l'indipendentismo quotidiano, possiamo dire, quello che si mobilita alle strade ogni volta, certo, eccetera, eccetera, e l'indipendentismo politico. L'indipendentismo politico, insomma, quello che sta facendo sono tre percorsi diversi. La CUP, che vuole fare un itinerario d'unilateralità, quindi adesso sì, abbiamo vinto questa votazione, i votanti di no avevano diritto a votare no. No, hanno votato. Alcuni lo hanno fatto, alcuni no. E quindi noi dobbiamo andare a fare l'indipendenza e adesso sì, a costruire questa, certo, nuova repubblica ecologista, femminista, eccetera, eccetera. Certo. Junts per Catalunya, il partito di Puigdemont, quello che vuole fare è restituire, possiamo dire, il governo anteriore, quindi mettere Puigdemont presidente, negoziare con lo Stato spagnolo. Non so cosa stanno pensando esattamente. E sì, quello che sta facendo Esquerra Repubblicana è appostare un'altra volta per fare politica autonomista, quindi per recuperare l'autonomia che ha perso la Catalogna in tutto questo processo e magari ricominciare di nuovo tutto questo processo. Certo. Questo è quello che succede nella politica, ma quello che succede, per fortuna, quello che succede alle strade è una roba abbastanza diversa, perché si deve dire che per quello che sta servendo tutto questo processo, come possiamo dire che il processo indipendentista serve come una scuola di formazione politica, così grande, sai? Quindi adesso tutta la società si sta organizzando magari in una realtà nuova che si chiama CDR, che è il Comitato in Difesa della Repubblica. Si sta organizzando precisamente per fare delle azioni più di azione diretta, non violenta sempre, ma d'azione diretta. Quindi penso che il futuro del movimento indipendentista viene per questo, non viene per la politica. Lo abbiamo perso tutto in la politica, abbiamo perso l'autonomia, abbiamo perso tutte le competenze che aveva l'amministrazione catalana, e il futuro viene per le strade, per la gente auto-organizzata, attuando, certo, direttamente. Certo, e invece per quanto riguarda, ora tu mi hai parlato in particolare, e mi sembra bene, di CUP, no? O comunque, cioè, nel senso, hai approfondito un po' di più. Per quanto riguarda in Spagna, non lo so, i compagni di Madrid, per dire, non lo so, come sono i rapporti tra persone che fanno politica attiva in strada, come mi state dicendo voi, a Barcellona, e persone che fanno altrettanto a Madrid? Cioè, com'è percepita? C'è una spaccatura di movimento? C'è, insomma, ditemi un po' cosa c'è, sono curioso. Tra l'altro c'è anche un compagno basco, sì, qua con noi. Ah, cioè, viva! Beh, specialmente nel Paese Basco, tra i Paesi Baschi e la Catalogna sempre c'è stata una ermantà, perché le ideali politiche sono molto simili. Allora sempre c'è stato un appoggio tra il Paese Basco e la Catalogna, e anche forse un po' alla Galizia, che ha una cultura anche diversa a quella spagnola. E negli altri posti di Spagna, beh, c'è stata un po' di divisione, io credo, e quelli che erano contro la Catalogna sicuramente si sono radicalizzati ancora di più, anche ci sono stati molti che vogliono fare boicott ai prodotti catalani, così fare. E dopo ci sono altri molti che hanno visto tutta la mobilizzazione pacifica che c'è stata alla Catalogna, tutta la gente, i milioni di persone che vogliono decidere, e la repressione della polizia, e ci sono molti spagnoli che sono a favore che i catalani abbiano il diritto a decidere. Di decidere cosa fare, sì, certo. Allora, non credo che ci siano gente spagnola che sia indipendentista, ci saranno molto pochi, ma quelli che sono a favore per il diritto a decidere ci sono molti, e dopo, vedendo la risposta che fa lo Stato spagnolo, è cresciuta questa gente. Bene, niente, il documentario di cui si parlava prima, noi lo possiamo trovare da qualche parte, ce lo possiamo guardare, anche se ci siamo persi l'appuntamento in polveriera, perché siamo stati... Sì, infatti lo vogliamo mettere su Vimeo e tutte queste cose, e anche lo manderemo all'organizzazione della polveriera, qui vi potete mettere in contatto con loro. Benissimo, allora metteremo link prossimamente sui nostri vari potentissimi canali di informazione. E niente, non so, abbiamo qualche altra domanda da fare ai nostri amici catalani? C'hai un problema di microfono, però. No, non vai meglio. Aspetta, prendi il mio se vuoi. Volevo fare un'ultima domanda, magari, su quelli che possono essere, secondo voi, che l'avete vissuta a vario titolo, insomma, ma da dentro questa cosa che è successa e sta succedendo, quali lezioni, sia in senso positivo che negativo, proprio come ultimi fatti si possono magari imparare per tutti gli altri movimenti indipendentisti che in Europa e non solo si stanno muovendo. Che ne so, anche in Italia ne viviamo di tanti tipi, da quello sardo che ha una certa connotazione politica, c'è quello corso in Francia, e dall'altra parte c'è quello di stampo destro come quello veneto, quello neoborbonico del sud. In fin dei conti, dove quello catalano e magari anche quello basco risultano esemplari, e dove c'è davvero da guardare e da imparare per capire cosa è una legittima indipendenza, insomma, una legittima aspirazione, voglio dire, all'indipendenza. Sì, in questo senso sicuramente quello che si deve fare prima è decidere quali sono i motivi per volere l'indipendenza. Quindi sono motivi economici, quasi quello che tu dicevi, più collegati alla destra, no? Di questo... la nostra produzione deve venire per noi, quindi tutto questo. O ci sono motivi più culturali, come nel caso della Catalogna, anche del Paese Basco. Si vuole costruire una nuova repubblica, in questo caso, perché dobbiamo ricordare che la Spagna è una monarchia. Si vuole costruire una repubblica con più diritti per tutti, non soltanto per i catalani, sai? E anche penso che... quello che si deve fare anche sempre è non confiare tanto con i politici. Quindi penso che l'indipendenza si deve costruire nelle strade, e questo è qualcosa che si vede in tutto il processo catalano. Certo, cioè, deve passare culturalmente, insomma, la cosa tra le persone. Bellissimo quello che abbiamo detto. Volevi aggiungere? Sì, beh... io, parlando dei Paesi Baschi, credo che l'esempio catalano è un esempio bellissimo per tutto il mondo, e ora nei Paesi Baschi si sta iniziando un nuovo processo, dopo che giorni fa la ETA si è disolto, e adesso inizia un nuovo processo, e per noi la Catalogna è un esempio, ma anche è un esempio molto... vuol dire, è faticoso, tutto quello che hanno fatto loro è incredibile, tutta quella mobilizzazione, che non si sono stancati mai, che sono usciti sempre milioni e milioni di nonostante persone. Nonostante la repressione, nonostante... E con la repressione dello Stato e anche della media, della televisione, certo. E della stampa, allora è molto difficile. Non so negli altri paesi, negli altri culture, se si può riuscire a fare tutto questo. Non lo so, quello sì che il catalano, il processo catalano, quello che si è fatto sulle strade è un esempio è per bellissimo. Tutti. Bene. Ci fa piacere sentire questo entusiasmo e queste molte delle parole che avete detto, ci ha fatto piacere. Noi vi ringraziamo e vi chiediamo se volete parlarci di un qualche aspetto che in particolare che vi ha colpito a voi o di un qualcos'altro, insomma una domanda libera. Potete, se no si prosegue, si manda un pezzaccio, diteci un po'. Noi siamo stati contentissimi, comunque vi ringraziamo 100.000 volte di questa intervista e di quanto avvenuto anche venerdì in quel della polveriera. E basta. Beh, niente, grazie a voi che ci avete invitato e poter convivere anche qua in Italia questa esperienza. Benissimo, grazie, viva. Ci riaggiorniamo, restiamo in contatto, metteremo link di questo documentario per poterlo diffondere ulteriormente. E se avrete voglia di parlare di novità, non esitate a contattarci, noi sicuramente faremo altrettanto, perché insomma quando le cose sono belle è bene riproporle, diciamo, no? Speriamo si vada sempre per il meglio, dai. Grazie mille, mandiamo un pezzaccio via dopo tutto questo parlare. Entriamo un po'. Un pezzaccio introduttivo per il tema prossimo, non ve lo sto manco a presentare, ve lo sentite e festa. Ad esprimerlo con le parole e la luce del giorno si divide la piazza tra un villaggio che ride e te, lo scemo che passa, e neppure la notte ti lascia da solo, gli altri sognano se stessi e tu sogni di loro. Anche tu andresti a cercare le parole sicure per farti ascoltare, per stupire mezz'ora basta un libro di storia, io cercai di imparare la Treccani a memoria, e dopo maiale e Majakovskij malfatto continuarono gli altri fino a leggermi matto, e senza sapere a chi dovessi la vita, in un manicomio io l'ho restituita. Qui sulla collina dormo malvolentieri, eppure c'è luce ormai nei miei pensieri. Qui nella penombra ora invento parole, ma rimpiango una luce, la luce del sole. Regalano ancora la vita, le regalano ancora erba fiorita, ma la vita è rimasta nelle voci in sordina di chi ha perso lo scemo e lo piange in collina, di chi ancora bisbiglia con la stessa ironia. Una morte pietosa lo strappò alla pazzia. Thank you. y'all niggas got me hot. Rieccoci. Allora, rubo un attimo il microfono a Grippo. Che ci devi dire? No, visto che comincia tra un'ora, intervengo secco per far presente che per l'appunto alle 18.30 in piazza Adua, quindi nella piazza accanto alla stazione di Firenze Santa Maria Novella, ci sarà un presidio al Palaffari, no aeroporto. Vi leggo brevemente quello, insomma, il comunicato con cui è lanciato il presidio. Loro al Palaffari, noi in piazza per riprenderci lavoro, salute e territorio. Lunedì 7 maggio i padroni del territorio si incontrano per dire sì al nuovo aeroporto di Firenze. Una kermesse, un incontro, una manifestazione. Un momento, come altri ce ne sono stati, per mostrare il proprio potere sui territori e affermare un progetto che ritengono strategico per le loro imprese e business plan. Eppure un momento particolare che, all'interno della lunga strategia di lobbying e tra i continui tentativi di direzione delle politiche territoriali, segna un passaggio importante. Si è indebolito il campo renziano, che fino ad oggi ha garantito coperture e soldi alle grandi opere come l'aeroporto, e i padroni del territorio cercano nuove alleanze e nuovi strumenti. Ora la gente provano a convincerla direttamente loro. Quella gente, stanca di false promesse e sfiduciata dalla politica, va presa col bastone e la carota e i manager sanno farlo. Di marketing e pubblicità hanno lezioni da dare e i selfie e le parole di questa kermesse sono le armi di questa lotta per la ricerca del consenso a cui politica e media mainstream faranno da supporto e amplificatore. Confindustria, grandi imprese, affaristi vecchi e nuovi uniti per convincere i fiorentini che un nuovo aeroporto è utile, necessario e vantaggioso per tutti. Proprio tutti. Un aeroporto sostenibile, green, talmente rispettoso dell'ambiente che è solo grazie a questo che si faranno boschi e parchi dove oggi è abbandono. Il tentativo di mascherare l'interesse privato dietro il bene comune è evidente, ma la scelta del luogo è un segno importante, il Palaffari di Firenze. Come il lupo si traveste da agnello ma resta un predatore, così Confindustria e grandi imprese possono parlare per tutti, ma sono quel che sono. Gli stessi che precarizzano il lavoro, che spacchettano le aziende concessioni e appalti al ribasso, che fanno formazione nelle scuole perché alternanza scuola-lavoro è una ricchezza e in università il privato si fa chiamare innovazione. Sono quelli per cui c'è sempre crisi, la crisi che si scarica su chi lavora coi licenziamenti, con l'aumento dei ritmi, i tagli continui, i progetti che non si rinnovano. Sono i protagonisti delle politiche immobiliari che stanno consegnando Firenze alla rendita e al mercato, sacrificando ogni diritto alla casa, agli spazi urbani, alla vivibilità dei centri vetrina desertificati e di periferie inquinate. È a chi li conosce che rivolgiamo questo appello, a chi ne conosce la violenza, l'arroganza, la capacità di manipolare e rovesciare la realtà col potere e il denaro, a chi non vuole più subire e vede nella difesa del territorio, nella resistenza alle grandi opere proposte, un'occasione per riprendersi ciò che gli spetta. Siamo sicuri di essere in tanti. E nulla, mi sembrava giusto farlo presente, ecco. Viva, giusto, anche perché sennò poi si faceva tardi e putazo qualcuno avesse deciso, insomma, chi può accorra, chi può accorra, noi è un sipole per l'appunto, e quindi cosa si fa? Facciamo altre cose e andiamo con l'intervista number 2. Grande Lago, introducici la te. Io introduco? No, un'introduzione così rapida, così un... Va bene, abbiamo due ospiti, no, tre ospiti. Due. No, c'è un fantasma. E niente, che ci parleranno fondamentalmente di una tre giorni, se non sbaglio, che si terrà a San Salvi, che tratterà un po', c'erano vari eventi che tratteranno fondamentalmente la legge Basaglia e tutto quello che è cambiato. Esatto. Benissimo. Allora, partiamo con un chi siete, dai. Chi siamo? Allora, io sono Luisa, faccio parte del collettivo, ciao, Codice Rosso di Medicina. Piacere. E poi sono qui insieme a Marta. Sì, sono Marta, faccio parte di Chile della Balanza, appunto la compagnia di teatro di ricerca con sede a San Salvi, l'ex manicomio di Firenze, dove appunto si terrà questo festival Storie Interdette, che parlerà appunto dell'importanza che è stata questa legge e appunto dell'ascita ad oggi. Parleremo di collettività, di comunità, di persone al centro, appunto del malato ieri e oggi. quest'anno appunto è un anno importante perché è il 40° della legge Basaglia, infatti in occasione questa settimana specialmente, perché appunto essendo stata fatta la legge approvata il 13 di maggio, questa settimana che parte proprio da oggi è proprio ricca 40, di eventi, 78. Esatto, anche a Genova, a Venezia mi pare ci sono eventi in tutta Italia e anche se aprite i giornali, articoli dappertutto. Il tema è importante, infatti noi siamo già partiti a marzo facendo un'altra iniziativa sempre con i Chile della Balanza, Codice Rosso e anche il collettivo Laboratorio 15 di Psicologia, e anche in questa iniziativa diciamo è stata un po' un interrogarci proprio tra noi studenti su quali fossero le tematiche legate a questa legge e quindi anche effettivamente la nostra domanda serviva anche per capire quello che oggi può essere l'eredità di questa legge, ma non solo, anche le battaglie che dobbiamo continuare a portare avanti, perché appunto sono passati 40 anni, però ci sono ancora tanti aspetti che devono essere continuati su cui bisogna continuare a lavorare. Esatto. Ed è stato un bell'incontro perché appunto è stato un po' anche un confronto generazionale, perché c'è stato dei begli incontri in Torretta, dei begli incontri a San Salvi, ed è stata anche occasione di fare uno stage assieme a Claudio e Sissi, appunto i fondatori, che hanno permesso gratuitamente a 10 ragazzi di fare uno stage di 2 giorni dove appunto tramite il metodo Artaud un avvicinarsi a quello che poteva sentire e che sentiva anche in un semplice OPG fino all'anno scorso un ricoverato, ed è stata un'occasione appunto per avvicinarsi in modo empatico al malato. È stato molto, molto corporeo, qualcosa di molto, molto particolare, sì, anche Luisa l'ha vissuto, molto entrante. Beh, sì. Anche perché c'è, cioè, come metodo Artaud, nel senso tipo chiusi lì dentro senza nessun contatto, esatto, con l'esterno, esatto, per 2 giorni? No, per quanto? Sì, sì, in realtà lo stage originale sarebbe 2 giorni pieni, quindi anche con la notte. Noi in realtà abbiamo fatto un'altra versione, quindi poi la notte siamo ritornati a casa, però comunque l'immersione è stata veramente sociale, anche soltanto per quei 2 giorni. Un allenare l'empatia, sì, diciamo. È stato molto interessante ritrovare un collegamento col corpo, sono stati fatti esercizi, in realtà siamo stati bendati per ore, oppure sì, siamo stati privati dei metodi comunicativi principali, cioè della vista e della parola per molto tempo, e ci hanno fatto diciamo risentire l'importanza del corpo, che spesso e volentieri è l'ultima cosa che sentiamo e che appunto porta anche alla disgregazione fra le persone. Spesso ci dimentichiamo che appunto un malato è una persona, si vede prima la malattia rispetto al malato, certo, in sé per sé, e invece questo siete porta per una tutte concezione le difficoltà più olistica. Come? Invece siete per un approccio più olistico, diciamo, al malato, insomma, si guarda, cioè al malato, alla persona, più olistico, si guarda, più umano. Si guarda l'interezza, diciamo, il contesto e tutto l'intorno, anche non soltanto il problema specifico. Ma andiamo a parlare un pochino, se si può, cioè proprio della legge Basaglia, insomma, di cosa ha significato anche del contesto in cui è stata emanata e innanzitutto strutturata. È stata, diciamo, la rivoluzione basagliana, una rivoluzione innanzitutto culturale prima che sanitaria, perché ha visto comunque la collaborazione di diverse classi, di diversi contesti, lavoratori, moltissimi operai, moltissime donne che si sono messe in gioco per questo cambiamento. Lo slogan era la libertà è terapeutica, certo, perché appunto è tramite, diciamo, la collettività e lo stare insieme che si superano certi limiti, quindi innanzitutto è stato quello. Infatti spesso si parla di utopia quando si vede la legge Basaglia. Tuttora, se vai a parlare con molte persone, credono che sia appunto un'utopia il poter integrare il malato in una collettività, perché lo si vede come un pericolo. È stata fatta, ora tra le tante iniziative ci sono in questi 3 giorni, ci sarà anche una video intervista che è stata gestita dai ragazzi del Gramsci, che hanno intervistato dalla prima alla quinta liceo diversi ragazzi e ragazze che non sapevano neanche che il manicomio è stato chiuso e neanche che l'Italia è l'unico paese in cui i manicomi sono realmente chiusi. E con grande sconcerto lo ammettevano, perché dicevano: oh, questi matti dove li mettono? Sono pericolosi. Quindi c'è proprio un allontanamento anche da quello che si vede nella malattia, cioè nell'essere umano che la vive, lo si vede come un pericolo. Comunque, più nello specifico, sono stati chiusi i manicomi innanzitutto a partire da Trieste, la rivoluzione basagliana. Sì, non soltanto. Allora, diciamo che Basaglia ha iniziato, è arrivato a Gorizia e da lì appunto ha trovato una situazione abominevole, proprio abominevole, e da lì diciamo ha iniziato a lavorare, poi si è spostato anche a Bologna, quindi comunque non è stato soltanto Trieste. Trieste è un po' il campione, esatto, però è stato un movimento che comunque è partito, portato avanti nel corso di tanti anni e in tante parti d'Italia. Per ricollegarci anche al fatto della concezione del malato e dell'approccio anche verso il paziente, il fatto di considerare appunto una persona, perché si tratta di persone nella sua completezza, è proprio il senso della legge, che non è soltanto una legge dove vengono chiusi i manicomi, perché infatti cioè il punto in cui si parla della chiusura dei manicomi è uno su 12 pagine, ma è una legge che in qualche modo garantisce, vuole garantire la libertà del paziente, la libertà di queste persone, esatto, perché come ad esempio chiunque di noi può ammalarsi, va in ospedale e ha una serie di diritti, perché come cittadino, come scelte, persona, esatto, certo, ha questi diritti. La stessa cosa deve essere anche per il diritto ad essere informato, esatto, si parla molto spesso in ambito medico di diritto appunto a una cura informata, e quindi deve essere la stessa cosa per una persona che soffre di disagio psichico, quindi l'isolarlo dalla società e quindi privarlo di ogni forma di diritto è proprio renderlo fuori dalla sua umanità, certo, portarlo fuori dalla sua umanità. E quindi appunto l'operazione di Basaglia è stata quella di garantire alle persone che soffrono di disagio psichico la libertà e mettere tra parentesi la malattia, proprio per vedere l'umano, la storia, sì, che c'è, sì, dietro, quindi la persona che, sì, una, che è. Non a caso storie interdette, insomma, nel senso. Storie interdette, il motivo principale è appunto perché verranno raccontate delle storie sotto forma di performance di 20 minuti dalle 9 in poi. Tutti i giorni, diciamo, ci sono degli eventi dalle 4 che sono gratuiti, ci sarà una visita alla Tinaia, ci sarà un vernissage gestito da esplorazioni urbane, appunto video interviste di questi ragazzi, ci sarà anche Beppe Dell'Acqua, Pietro Clemente, Giuliano Scabia, diversi personaggi per fare una chiacchierata appunto l'11 della giornata universitaria, a cui tra l'altro vi invitiamo per poter fare 4 chiacchiere informali con questi personaggi che sono stati collaboratori di Basaglia, per parlare appunto intanto anche della necessità che hanno avuto loro di sbattersi a fare questa cosa e certo, anche chiedere anche consigli magari sul come possiamo approcciarci oggi, visto che non c'è un senso di comunità potente, c'è molto individualismo. Comunque, al di là di questo, sono appunto attività gratuite ogni giorno dalle 4, dalle 9 verranno fatte queste performance da questi 4 ragazzi che abbiamo selezionato da un bando nazionale, appunto Storie Interdette, in cui chiedevamo di portarci delle idee progettuali che parlassero appunto di manicomio, di storie anche di manicomi invisibili. E avremo la prima storia che parla di Andrea Paolini, che è stato un internato in un manicomio semplicemente perché era orfano e povero per tutta la vita, e poi appunto ha avuto seri problemi nell'integrazione nella vita quotidiana. Poi abbiamo un'altra ragazza che parlerà di una storia di una donna che è finita in un padiglione per appunto avere scelto l'uomo sbagliato, quindi per motivi morali. Certo. Un'altra invece parlerà di questa bambina che è l'unico punto di collegamento fra la società e la famiglia, perché appunto è figlia di un padre schizofrenico che non riesce a trovare un modo di comunicare con il suo circostante. Ed è interessante appunto vedere come questa bambina poi riesce a far da tramite. L'altra storia invece è un caso di attualità di questa ragazza che diciamo la sua migliore amica ha vissuto un caso di TSO e quindi racconterà della sua esperienza. Infatti volevo leggere proprio il titolo della sua. Si chiama Resoconto sincero di un soggiorno in psichiatria. Quindi saranno racconti forti, esperienze comunque sia di persone che l'hanno vissuto da vicino, sia appunto reso conti di storie di altri. E ci tenevamo a questo perché appunto è importante partire da come la persona ha vissuto tutto questo, senza rimanere al moralmente giusto o sbagliato di quello che vive o no una persona con problemi psichici, anche appunto per interrogarci ad oggi com'è la situazione, come vengono trattati i pazienti di TSO. Certo. Avevate detto, ora vi cito, no, che insomma la legge Basaglia è stata più una rivoluzione culturale, no, inizialmente, perché insomma i manicomi non si chiudono da un giorno all'altro, sarebbe come dire, non lo so, chiudiamo le prigioni domani, via, tutti fuori, insomma non è che sia così facile, insomma c'è stato, stiamo attraversando anche in un certo senso, volendo, un periodo di perpetua transizione e evoluzione per quanto riguarda la cura del malato disabile, psichiatrico, insomma. Sì, stiamo attraversando, anche perché proprio in questi giorni leggevo che l'ultimo manicomio è stato chiuso in realtà nel 2010, si tratta di manicomi privati in Puglia, in Sardegna e in Sicilia. Quindi appunto la maggior parte in realtà sono stati chiusi poi alla fine degli anni 90, quindi comunque si tratta di ben 20 anni dopo, e 2010 è appena 8 anni fa, quindi comunque al di là dell'evento fisico della chiusura del manicomio, il senso di parlare oggi anche di queste tematiche sta proprio nel fatto che possono cambiare le forme, possono cambiare le strutture, però uno deve guardare poi cosa c'è dentro e quindi come vengono trattati i pazienti. Il rischio a cui stiamo andando incontro oggi è quello che in qualche modo sta succedendo, è proprio lo scordarsi e il dimenticarsi il succo in qualche modo della rivoluzione basagliana, quindi andare in qualche modo ad applicare delle forme analoghe a quelle dei manicomi in strutture che si chiamano in un'altra formalmente maniera, esatto, istituzionalmente sembrano pienamente sono in regola, perché sono appunto strutture pubbliche, però ad esempio i reparti psichiatrici ospedalieri sono reparti completamente chiusi, dove molto spesso nella maggior parte dei reparti degli SPDC avviene ancora applicata la contenzione meccanica, quindi i pazienti legati con fascette ai letti. Quindi appunto, più che cambiare, l'interrogarci oggi serve proprio per non dimenticare che possiamo cambiare le forme, possiamo cambiare le strutture, però dovremmo invece lavorare su quello che è il trattamento umano. Poi concreto, arrivati sul campo. Molto bello è che ci sia una partecipazione attiva sia di un collettivo di psicologia che di uno di medicina, perché insomma poi alla fine ecco, se si attivano persone a discutere di questi temi in sede di studi, insomma si spera un domani di poter avere dei migliori psichiatri o dei migliori psicologi o dei migliori professionisti anche per, insomma, in quest'ambito. Poi su tutte le varie, cioè su ogni singolo di questi argomenti, cioè per dire, non so, abbiamo citato contenzione meccanica, ma potremmo parlare di TSO, potremmo parlare di terapia al bisogno e di terapia farmacologica, contenzione, sono temi così ampi che non basterebbero tutte le puntate dell'anno di Fuoco alle Polveri per riuscire a sviscerarli, ecco. No, infatti sono temi molto vasti, ci sono tanti aspetti, appunto, anche soltanto tu ne hai citati alcuni, anche la questione degli OPG ad esempio, sul fatto appunto della collaborazione tra medici e psicologi, soprattutto tra noi studenti. Una delle esigenze che ci ha spinto anche a fare l'iniziativa Il Manicomio Invisibile è stata proprio quella che noi abbiamo una formazione all'interno dell'università che però non ci parla mai di questi temi, quindi noi arriviamo magari a doverci confrontare con queste situazioni quando entriamo per motivi di o tirocinio oppure di lavoro negli ospedali, però se non c'è un personale formato poi le conseguenze vengono pagate, e vengono pagate sulla pelle della gente, quindi anche l'esigenza di parlarne e di parlarne insieme, perché anche la collaborazione tra vario personale che poi deve lavorare nelle strutture è importante. Certo, anche l'università spesso magari ti dà la nozione, no? Esatto. O comunque magari la nozione tecnica o la competenza su una cosa, però alla fine se non c'è dietro un tuo ragionamento o insomma, o anche se non sei riuscito a toccare con mano determinate cose, anche solo a guardarti intorno ha poco senso parlarne. Poi si parla sempre di persone, no? E quindi, cioè, secondo me uno dei ragionamenti più belli che si possa fare è comunque che alla fine, all'inizio di tutto ci sta sempre la persona, no? E quindi insomma è bello andare a vedere gli interventi che si possono fare e le forme di aiuto e di maggior dignità che si possono dare a una persona, guardando ognuno nel suo specificissimo caso, perché siamo tutti Da lì secondo me nasce anche il problema, appunto, da parte dell'operatore, da parte dell'infermiere psichiatrico. A cosa devo seguire? Devo seguire la mia etica, morale, o devo seguire il dirigente, la sua scelta? Perché non è scontato. No, non è per niente scontato. Per quanto la legge 180 è applicata a livello italiano, c'è un'ambiguità, c'è un'autonomia delle regioni, appunto, nell'applicazione. Sì. Ma poi anche di struttura, anche magari, della struttura, no? Stessa. Ci sono anche strutture private che magari... Fino a che ci sono dirigenti che la pensano così, che magari sono stati anche collaboratori di chi ha fatto questa legge, va tutto bene. Ma dal momento che ci sono dei dirigenti ti possono mettere in difficoltà lavorativa, certo. Se te applichi al tempo delle... stesso ci sono anche proprio dei casi molto difficili, cioè, sono ricatti lavorativi a tutti gli effetti, purtroppo. Esatto, e delle situazioni in cui è difficile trovare una risposta su qual è la migliore cura da seguire o la... Io credo che sia importante il lavoro che viene fatto in queste iniziative e in questo discorso anche che stiamo facendo adesso, a formare le persone, insomma, a culturalmente sull'argomento, no? Per poter poi affrontare meglio. Sì, infatti uno degli incontri che abbiamo avuto durante la nostra iniziativa al Manicomio Invisibile è stato appunto tra Piero Cipriano, che lavora a Roma in un SPDC restraint, mm-hmm. quindi dove viene applicata contenzione, e Vito Danza, che invece lavora a Prato in un SPDC non restraint, dove lui è il dirigente. Quindi appunto abbiamo avuto questa situazione di confronto tra un medico, uno psichiatra che non è dirigente, quindi in qualche modo va contro la dirigenza, va contro l'impostazione del reparto in cui lavora perché non vuole legare le persone, e quindi continua a portare avanti la sua battaglia, però non ha nient'altro che la sua testimonianza e il suo modo di agire quotidiano per portare avanti questa battaglia. Invece un altro caso in cui a seconda della dirigenza del reparto puoi, insomma, cambiare proprio tutta l'organizzazione del reparto. Quindi una delle domande che ci poniamo anche proprio tra di noi quando parliamo di questi argomenti è come riuscire a portare avanti poi questa battaglia anche a livello culturale, quindi fare in modo che, diffondendo il più possibile il concetto della legge Basaglia, quindi ciò che sta alla base, non ci sia più bisogno di una dirigenza che ti imponga di non legare le persone, ma sia lo stesso operatore che sa che è una cosa che non si fa, che ha capito qual è il concetto, ecco. E è andato anche nella pratica poi, senso, a trovare... diciamo che il massimo sarebbe che questa rivoluzione fosse amplificata oggi dal basso, appunto. Sì, che certo. Il dirigente si senta quasi alle strette nel dover approvare, anzi a disapprovare la contenzione, perché se tutti gli operatori una segnalazione da parte di un operatore, se tutti gli operatori si rifiusano di fare contenzione, dopo non ti trovi più operatori disponibili a farla, questo è il concetto di base. Molto interessante, verrà presentato un libro scritto da un giudice, Franco Corleone, che è stato appunto anche uno di quelli che si è dato da fare per fare chiudere gli OPG. Ha fatto proprio lui la legge sulla chiusura degli OPG, sì. È un libro insieme anche a Nicola Graziano, si chiama Matricola 001, dove lui si è fatto chiudere per 3 giorni in un OPG ad Aversa, per vivere appunto quello che il paziente vive. E si è messo d'accordo con un fotografo che ha finto di essere lì come giornalista, e appunto vengono racchiuse anche molte immagini significative di quello, appunto è un po' un vedere nella serratura di questi di queste realtà che appunto non possiamo immaginarci, perché appunto essendo isolate, chiuse, non sono visibili esatto. Certo, credo sia molto importante anche portare avanti questi argomenti per tutte le persone che lavorano in questi ambiti, perché spesso poi nella quotidianità del lavoro nella serialità anche del lavoro di tutti quanti i giorni si smarrisce spesso il lato umano, nel senso non capita di rado di vedere nelle strutture sanitarie, non si parla soltanto di reparti psichiatrici, ma si parla anche magari di reparti normali d'ospedale in cui i professionisti, vuoi per il burnout, vuoi per natura cattiva dell'uomo, non sono davvero centrati sulla persona, sui suoi problemi. Non a caso c'è stata una forte preoccupazione 2 mesi fa quando all'SPDC dell'Annunziata volevano spostarla a Lurivella in questa struttura privata, e purtroppo non è stato, insomma, è pericoloso spostare questi reparti, certo, perché più li isoli e meno sono visibili e meno c'è un controllo. Certo. Per fortuna c'è stato un blocco più che altro economico, perché se sposti un reparto in una residenza, una struttura privata, comunque va incontro a dei costi che prima non avevi, quindi diciamo che il motivo non doveva essere quello, però, certo, però per fortuna è stato anche quello. Però l'economia tutto muove, il soldo tutto muove, anche il fatto di sanità, sì, esatto. Sì, riguardo a quello che dicevi prima sulla tendenza a deumanizzare il paziente all'interno della sanità, penso sia appunto un problema generale che non viene, viene ristretto solo all'ambito psichiatrico, anche solo nei pronto soccorsi oppure in tutti i reparti. È un po' una tendenza che che secondo si ritrova me hai citato spesso. una cosa emblematica, il pronto soccorso, no? Dove uno pensa di andare, capito? Esatto. Mi rimettono a posto il piede, mi rimettono a posto la mano, anche lì è importante che tu venga trattato come una persona e che tu venga sempre informato di tutto ciò che succede. Io, insomma, ho visto tante di persone fare un intervento su una persona senza manco dirlo, no? Cioè, tante volte è anche soltanto parlare e rendere chiare le cose. Sì, appunto, bastano piccoli gesti, piccole accortezze per trattare appunto una persona da persona qual è, o da oggetto che è lì davanti a te che devi semplicemente mettere a posto, ecco. Immedesimarsi nella persona e pensare anche quali potrebbero essere le sue perplessità o domande o un senso paure in quel momento. Bene, a noi, nel senso, ha fatto piacere questa chiacchierata e nel senso sono temi sempre caldi e sempre in evoluzione, sempre interessantissimi da trattare. E volevo dire appunto che l'11, essendo la giornata universitaria, verranno anche dei ragazzi dell'Accademia delle Belle Arti, faranno un live painting appunto su queste tematiche, quindi appunto ognuno userà il suo metodo espressivo per dire la sua a proposito, e ci fa piacere appunto, come si diceva, rivoluzione culturale, cerchiamo di mantenerla questa comunione, questa diciamo condivisione del tema, sotto, anche se non si è psichiatri, se non si è medici, sia si sia attori che si sia pittori. Esatto, a riguardo noi abbiamo anche, oltre all'iniziativa che abbiamo fatto, stiamo cercando di creare proprio un gruppo di persone per parlare e portare avanti iniziative di vario genere sull'argomento, e ci siamo chiamati Percorso Psiche, abbiamo una pagina Facebook, quindi tutte le iniziative sulla tematica, sia che siano organizzate attraverso i collettivi medicina, psicologia o comunque che riguardino la tematica, le potete trovare seguendoci sulla pagina. Brava, ripeti come si chiama? Percorso Psiche. Vai. Percorso Psiche. Andremo a cercare, buono. Metteremo linkettoni, sì, riferimenti nel podcast e tutto il resto. Grazie mille. Grazie a voi. Stra interessante. Stiamo in contatto e viva. Sicuramente. Wombat Wombat. Sempre. Wombat. Che facciamo? Stacchiamo un attimo. Diamo ritmo. Vai. Vai, allora do ritmo. Sei pronta? Sì, no, ce n'avevo un'altra, però ho detto diamo ritmo, quindi do ritmo per davvero. Via. Lips like they be singing sex stop strawberry song. With a shotgun in her hand. She's a bass, she's a beat, she's a rhythm, she's the band. And the girl's so fine, but she wanna scream hallelujah. Morning. Scusate, sono di Wombat, è ripartito il pezzo. Siamo tutti registi e non riusciamo a tenere il tempo di questa dannatissima puntata. Eh sì, perché deleghiamo, cioè, stiamo, non va bene. Esatto, no, siamo monotasking. Cioè, se ci concentriamo solo sulla regia, va bene. Sì, sì, e stiamo facendo tutt'altro. Sì, io mi sento strano, perché non ho davanti il computer della regia, e quindi tutto un po' strano. Dall'altra parte del tavolo, dovete vederlo, Glanded Lago. Oh, io finora non avevo il microfono e quindi mi sentivo molto a mio agio. Esatto, devo quello. Oh, e invece portaci la tua dose di disagio, perché noi ci cibiamo di quello. Ci piace. Andiamo a scodellare l'ultima nardellata, io c'ho voglia. Vai. Voi avete voglia di nardellata? Raccontaci. Tanto, cioè, ormai è praticamente il protagonista. Certo, si potrebbe trovare. È l'antagonista delle nostre, cioè, Ciao, salutiamo. Salutiamo in diretta. Eravamo a salutare anche prima, però scusate, nel senso, noi siamo comunque accoglienti con i nostri ospiti. Cioè, certo, quando è la tana del Wombat è più importante la cortesia verso l'ospite della puntualità, poi quella verso l'ascoltatore. Stai dicendo sì, no, vi vogliamo bene. Tornando alle foto, io ti consiglierei di usare l'altro microfono. Usa l'altro microfono. È vero? Io consiglierei quasi potremmo trovare una musichetta da mettere sotto il Nardella Time. Sotto il Nardella Time? Tanto ne dice una settimana, cioè una rubrica ormai va avanti da sé. Consolidata e solida. Andrebbe sì, anche secondo me andrebbe ormai a questo punto lanciata come rubrica. La Nardellata, tanto una settimana la dice, anzi forse sarà il problema di selezionare programma intero tra le varie che magari ha detto. Sì. Insomma, cosa ci ha combinato il Nardellona a questa girata? Io cito 055 Firenze, un articolo del 4 di maggio. Proposta del sindaco di Firenze Dario Nardella sulle graduatorie per gli alloggi popolari e reazione immediata dalle opposizioni politiche. Il tutto dopo un sopralluogo del sindaco al cantiere delle case popolari in via Tollere degli Agli. dove sono in costruzione 90 alloggi, che tra un anno saranno pronti ad accogliere tante famiglie. Il nostro obiettivo è quello di consegnare le case popolari a chi aspetta da mesi in graduatoria. Per questo da Firenze parte una nuova proposta, per non creare ghetti come nelle periferie francesi. Bisogna evitare di inserire troppe famiglie straniere negli stessi condomini e anzi aiutare le famiglie in fascia grigia a dare un punteggio maggiore a chi risiede da più anni in Toscana. La cosa più importante è creare dei luoghi di convivenza, scrive Dario Nardella via Facebook. Quindi insomma, Nardella rilancia, ha fatto il rilancione, il sorpassone da destra, diciamo. La destra dice sempre... prima gli italiani, Nardella dice prima i toscani, torna con clima da Granducato di Toscana. Sì, si va a restringere. Sì, esatto, si va a restringere. Tra un pochino ci sarà il movimento... quartiere centro, movimenti rifredi, si inizierà la grande guerra tra i quartieri probabilmente. Via Torre degli Agli comunque è una delle cose Togli più... Agli. Cioè non si può pronunciare praticamente. Sì, esatto. Cosa ci va, cosa è successo, no? A chi è che è piaciuta questa affermazione qua di Nardella? Prima i toscani, no? Perché per adesso come sta la legge, no? Ci sono 5 anni, no, che di residenza nel comune all'interno di Firenze per poter accedere alle graduatorie per l'assegnazione delle case popolari, no? La proposta è quella di passarla a 8-10 anni. A chi è che è piaciuta questa proposta? No, c'è una mano alzata. Vai, c'è anche un microfono. A chi? È piaciuta a Jacopo Cellai e a Francesco Torselli, capigruppo di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. Ma tu guarda. E quindi nel senso, bello scoprire nel 2018 che privilegiando per le case popolari le famiglie straniere rispetto a quelle italiane in coda delle graduatorie da anni, si creano ghetti e che quindi serve aumentare il periodo di residenza per aiutare chi ha più diritto all'assegnazione dell'alloggio. Bravo Nardella, peccato che il PD e tutta la sinistra di cui fa parte abbiano sostenuto per decenni il contrario, creando di fatto quei ghetti che oggi sindaco dice di voler scongiurare. Siamo alle comiche, cioè li pigliano pure per il culo alla fine di tutto, cioè, siamo pure alle comiche, capito? Cioè, diciamo, bravo Nardella, scemo che ci sei arrivato solo adesso, cioè, quindi se beccato di scemo pure da quelli che dicono bravo. Scoppi a destra e a sinistra, uno schiaffo di qui e uno schiaffo di là, è andato a circa così. Tutto questo perché mai ha fatto questa cosa Nardella, boh, se non per fomentare, sollecitare e ravvivare la grande guerra tra i grandi poveri, perché tra 2 anni sostanzialmente c'è la grande votazione e quindi bisogna guardare un attimino verso le destre. E poi perché? Esatto. E poi è una novità tutto ciò, esatto. Oppure no, nel senso che ci sorprende tutto ciò, no, nel senso che se si torna esattamente un anno fa, ovvero qui io prendo una notizia pubblicata da Controradio il 3 marzo 2017, Nardella affermò che sicurezza, troppi immigrati in case popolari, rischio ghetti. E praticamente qua il sindaco va cambiata la legge regionale, soglia residenza in Italia troppo bassa, il che fa paventare anche un'altra possibilità che potrebbe essere interessante su questa scelta di direzione, perché fomentare questa guerra tra poveri farebbe anche... potrebbe far pensare insomma anche a una lotta intestina tra Nardella, rappresentante del PD, contro una regione, un presidente di regione che invece dal PD se n'è andato. E, insomma, abbiamo visto che già in diversi ambiti si sono scontrati, insomma, siamo noi il terreno di lotta, sono gli ultimi il terreno di lotta per queste persone apparentemente, ecco. Io la butto lì come ipotesi complottista. chissà chi lo sa, non lo sa. Nardellone, mi cioè, compila sempre una. Ci fosse da piangere, farebbe straridere. Beh, le infamate non solo da noi a questa girata, ma da tutti, anche da quelli che gli danno ragione. Incredibile. Comunque, pronto? Comunque, eccolo. Eccomi. Comunque, io propongo una sigla. Dovremmo fare una sigla. Esatto, l'avevo già detto anch'io. Ah, scusa. Ci vorrebbe una sigla. Esatto, c'è ragione. Vai, esponi. Allora, possiamo proporre di nuovo insieme questa idea della sigla. Per ogni volta che Nardella che interpelliamo, esatto. Si arriva nel nostro momento Nardella, noi prepariamo una siglettina. Bello, Nardella che arriva trafilato. Ah, voglio dire qualcosa. Bello, bello. Sì, lo stavamo dicendo. Dicevamo, un stacchetto nardelliano. Esatto. Dicevamo, problemi di, cioè, mancanza di materiale non ci saranno probabilmente, cioè non sarebbero mai mancati nell'ultimo anno. Se ma è perché siamo dei fanboy noi, cioè lo seguiamo. Sì, in realtà, cioè, in tutto ciò stiamo parlando un sacco di Nardella e di Hamilton, due personaggi. Stiamo scaldando già i motori, Radio Wombat qua, fuoco alle polveri per il prossimo abbandonato. Non si guarda in bocca. E spezziamo il tutto con un pezzaccio e poi andiamo ci attrezziamo sull'intranetto gambetta del magico mondo della datacrazia. Ma come lo volete? Di quelli lunghi? Di quelli corti? Mi ha detto lunghetto, no, 3 no. minuti, 4 minuti. Detto lunghi lui mette 16. No, aspetta, col Getro Tal. No, ma che Getro Tal? Lunghi metto 5. 4. Vai di 4, 3, fanculo, 3 e mezzo, 4. C'è 5, c'è 3. Ordine a minutaggio. Fanculo, quella italiana metti. Quella italiana? Va bene. Sì, però la voglio anche a tema internet. No, scherzo, sì, vai tranquillo. Senti, potete andare anche a fanculo tutti quanti. Facciamo che la metto in inglese cantata da un italiano. Vai, sono andati in culo tutti e via. Fabrizio Cammarata. I followed ocean trails to find you here. Back where I started from. I followed useless kisses all the way. Worrying about all the light that she shines when she comes. And then I found everything to be so confused. Oh yes, but I was trying. And then I found there's a pain that you can't hide. If you worry about every new thing that happens in life, afford all those tears in my eyes. She can't afford all the tears in my eyes. She can't afford all these tears as she shines. And so I followed seven rivers to the sea. What was the if all the dreams that I treasured were made of concrete? I was chasing another you that I'd seen in my dreams. She takes a stand. She can't afford all these tears in my eyes. She can't afford all these tears in my eyes. She takes a stand and she makes amends. She takes a stand and she makes amends. She's only choosing some other place to stay. And I'm still here. Cause she's the only place where I can sleep at night. She can't afford all these tears in my eyes. She can't. Eccoci, eccoci tornati. Ok. E adesso andiamo con una chiamata con il curatore di una bellissima raccolta che verrà fra l'altro presentata durante il Festival di Letteratura Sociale in quel di Polveriera, precisamente il 18 maggio in serata, sarà una presentazione serale che fra l'altro arriverà dopo. È un po' la serata del 18 è un po' a tema internet, nel senso che viene dopo un'altra presentazione che è di un libro Guerra di Rete di Carola Frediani, pubblicato dalla Terza nel 2000, ormai l'anno scorso 2017, insieme anche, udite udite, a esponenti, cioè simpatizzanti esponenti di Autistici Inventati, che ci parleranno un po' di tutto quello che sta succedendo nella rete e di cui non sappiamo spesso veramente quasi niente praticamente. Mentre appunto la presentazione di questa datarazia, curato da Daniele Gambetta appunto, che avremo al telefono fra poco, è molto bella, ho avuto il piacere di leggerla un pochino in preview, e è molto bella perché ci sono varie voci che parlano, che ci parlano di tematiche legate a algoritmi e gestione dei big data, no? Questo nome ormai si sente veramente parlare ovunque. Sì. E da molti punti di vista, più che altro ogni contributo mette sul tavolo degli spunti, dei punti di vista diversissimi fra loro, pur mantenendo ovviamente per la tematica in sé dei punti di contatto, ritornano spesso su dei concetti e viene a crearsi una mappa, no, con la lettura di questa raccolta molto interessante, perché altro magari non dà neanche troppe risposte, ma pone delle questioni che troppo poco spesso vengono messe davanti agli occhi delle persone. Quindi proviamo questo collegamento Eccoci qua con i nostri potenti mezzi, inseriamo il pirlo che sicuramente dovrò tenere. Si è bloccato tutto il telefono. Aspetta, è la Z di Zorro. Devi fare la Z di Zorro. È il suo. La Z di Zorro. Eccola, Z di Zorro. Perfetto, ha funzionato. Sergente Garcia. Andiamo in chiamata. Cambiare Radio adesso. Verità. Si può sentire il tutù per favore? Si dovrebbe sentire. Sta facendo tutto. Sì, sì. Fatto un tu strano. Eccolo. Bellissimo il tutù. No, è caduta la linea. Bellissimo quel tutù. Bellissimo. Caduta la linea, no buono. Chiamata in corso, dice lui. È Radio Verità. Sta a vedere che fa finire il pezzo, ne tocca a mettere un altro. Oh, bellissimo. La... Se non rispondo sarebbe incredibile. Pronto? Eccolo. Ciao, sei in diretta su Radio. Pronto? Wombat. Mi senti? Mi senti? Mi senti? Ci sei? Ci siamo? Pronto? Mi senti? Pronto? Mi senti? Non ci sente per adesso. Non ci sente. Ci senti? Non c'è più? Non lo Daniele? Sentiamo nemmeno noi però adesso. Daniele, i nostri mezzi. Daniele? C'è il nulla. Il nulla. Quindi nel mondo ci sono i big data e i piruli che non funzionano. I telefoni e i piruli che non funzionano. It's a problem. Dagli corpo. Il ritmo. Riproviamo. Sì, vai. Siamo carichi. È di vedere. Ci dà la carica. Pronto? Eccolo, mi senti ora? Dimmi di sì. Sì, adesso sì, però non sentivo, vai. Oh, eccolo. Oh, ciao, benvenuto su Radio Wombat, Fuoco alle Polveri. Ho appena fatto fare una mini introduzione a Datarazia, che per fortuna... Ok. Ti ringrazio per avermi dato la possibilità di leggerlo un pochino in anteprima. Stra interessante, okay. Stra bello. Più che altro, appunto, come dicevo prima, è molto bello perché c'è una multidisciplinarietà molto estesa in tutti i contributi che ci sono, sono punti di vista veramente diversi. E quindi niente, è molto interessante, più che altro riesce a porre questioni in maniera organica che troppo poco spesso si vedono poste appunto nel dibattito pubblico, nel dibattito di tutti i giorni. Comunque, appunto, abbiamo il telefono di Daniele Gambetta, che è il curatore di Datacrazia, edito da Di Editore, appena uscito, no? La prima tiratura è stata data ora. Sì, ieri, questa settimana, praticamente. Ah, fresco, fresco. Insomma, se ci vuoi parlare un attimino che cos'è, meglio sentire dalla tua parola. Certo. Dunque, intanto grazie dell'invito, insomma. Sì, dunque, a parte il fatto che appunto l'idea di questo progetto è nata quasi un anno fa, in maniera anche se appunto molto embrionale, nel senso che poco prima dell'estate, parlando con Emanuele, l'editore, anche con Raffaele, si pensava, si era buttata l'idea appunto di cominciare ad affrontare qualcosa su discorsi che all'epoca erano anche un po' emergenti, e almeno parlo nell'opinione, diciamo, mainstream. Comunque erano questioni legate appunto a il ruolo delle piattaforme principalmente digitali in vari contesti, e anche la questione dei dati, uscendo anche dal semplice contesto dei social network o anche di internet, perché appunto quando si parla di dati si parla di tante cose, e l'idea era quella appunto di approcciare il discorso già riuscendo a dare, provando a dare un altro respiro, insomma. Una delle questioni infatti da sbrigare in primi tempi era capire in questo, visto che appunto come dici anche te, si parla di algoritmi, si parla di intelligenza artificiale, si parla di tanti argomenti che sono comunque collegati tra loro, e il maggior dubbio è stato anche capire se affrontare un dettaglio o una serie di questioni in particolare, provando a approfondirle, che comunque non sarebbe mai stato esaustivo per approfondire i temi, oppure come poi è stato fatto, dare diciamo uno sguardo più ampio, accennando a tante cose, riuscendo appunto a dare almeno dei fili rossi che connettono i dati nella ricerca, così come il problema dei bias nell'intelligenza artificiale, o appunto in generale le problematiche politiche che emergono che hanno a che fare con tecnologie che comunque sono determinate da appunto pochissimi gruppi privati, come sappiamo, dove la questione della proprietà dei dati e delle macchine è fondamentale, ecco. Sì, infatti è diviso in 5 parti, possiamo dire. Esatto, sì. Pian piano abbiamo trovato il modo, come dicevi te, ho chiamato, diciamo, ho contattato un po' di persone che già conoscevo, a parte due persone che ho cercato perché mi mancavano due questioni particolari, come quella sul giornalismo, che poi ha affrontato Simi. Quindi secondo me, diciamo, pian piano abbiamo trovato 5 macro categorie, potremmo dire, di tipo Dune è un contenitore veramente vasto. Incominciamo con magari Grezzotti e Pieranni, che parlano più di introduzione alla fine un po' all'economia dei big data, al ruolo che hanno nella politica internazionale. Sì, c'è un focus. Focus poi sul caso della Cina, di cui Pieranni si sta occupando particolarmente. Dopo appunto abbiamo voluto indicare una seconda parte sul ruolo dei dati nella ricerca, questo sia nel senso del mito della fine della teoria, quindi un po' affrontando la questione dei dati entusiasti, no? Che proclamano il fatto che con questi petabyte si possono ottenere verità indiscutibili e oggettive, e così come tra l'altro questa cosa si è collegata al fatto che la ricerca avviene su dati che spesso sono provenienti o appartenenti a anche a gruppi privati, quindi c'è sempre un assoggettamento anche della ricerca in confronto di questi. Poi appunto si parla di intelligenza artificiale, e c'è un altro capitolo più vasto, vite datificate, proprio si chiama, perché affronta tutta la questione della cultura algoritmica, quindi vuole anche il capitolo che vuole provare a far capire come queste cose non siano cose che stanno chissà dove, ma determinano tutto, determinano, si parla di Netflix, si parla di Spotify, proprio per provare a dare questo imprinting, insomma. E poi chiaramente una conclusione più politica a cura di Alberto Manconi, che ha fatto sia un'introduzione che la traduzione dei testi dallo spagnolo, perché poi anche in Spagna e Catalogna ci sono stati vari progetti negli ultimi anni molto interessanti sul punto di vista della rappresentazione dei dati, quindi sicuramente è un terreno interessante che viene affrontato. Ovviamente ci sono dei filoni, come dicevo, quello della neutralità, che riguarda anche ad esempio quando l'intelligenza artificiale, si parla di fake news, no? Il mito di risolvere il problema delle fake news tramite cose automatiche, quindi sono di filone, è la cosa che è emersa poi col tempo, per fortuna è stata la soddisfazione che ho anche avuto io, è vedere come poi nelle varie cose, anche tra gente che non si era parlato tra di loro, si è riuscito a creare un diciamo varie connessioni tematiche, sì, che esatto, qui e là. Esatto, lo dicevo prima di chiamarti, proprio questo fattore qui mi ha colpito molto, cioè nel senso che molti temi strisciano in molte dei contributi, tornano fuori, riemergono, rimangono sotto testo, ritornano fuori, è molto, certo, cioè dà un, sì, dà un senso di respiro, insomma, la raccolta, non sono divisi fra di sé, cioè funziona, funziona. Ma quanta paura hai o avete di aver fatto un lavoro che poi potrebbe diventare vecchio nel giro di poco? Questo, come diceva l'introduzione, anche è una questione, perché non è facile, appunto, è una cosa che mi sono anche domandato spesso, nel senso che appunto tanti testi, magari quelli più incentrati su questioni particolari, come i social network. Esatto, sì, a me appunto mi era venuta in mente anche tutta la storia di Cambridge Analytica, insomma. Certo, poi la mia amica cioè esplosa per caso e devo dire che è stata determinante per la scelta della copertina. Comunque, è anche qui che Cambridge Analytica, che sicuramente è una cosa che, a parte il fatto che oltre che essere una notizia riferita a fatti vecchi, era già emersa nei giornali. Se ne era parlato ad agosto, tra l'altro alcuni giornali all'epoca avevano una un po' complottistica, i giornali che poi ora, per motivi di stare sul petto, l'hanno fatto esplodere, quindi anche poi le dinamiche dell'informazione sono veramente complesse, assurde a volte, però sicuramente è importante la cosa, il fatto che non è, diciamo, chiaramente una cosa che riguarda, non è eccezionale, nel senso che riguarda la struttura di come queste nuove piattaforme, questo capitalismo funziona in base ai dati, quindi di conseguenza in questo modo. Quindi anche lì, sì, probabilmente tra un anno che già non se ne parla più o scoppierà un altro caso, che ne so, in un punto era provare a fornire, a sfruttare, diciamo, l'attualità per poter parlare di processi che verosimilmente non si esauriranno in pochi anni, anzi. Poi è chiaro che magari assumeranno nuove forme, eccetera, però di volta in volta, diciamo che tu alla fine fornire poi strumenti che poi possono essere utili anche tra 2 anni per, esatto, infatti la forza di questa vostra raccolta è proprio quella, secondo me, anche, cioè, non l'ho letta tutta purtroppo, però ancora insomma mi prenderò un po' di tempo per leggerla più attentamente, in maniera più attenta, però è proprio questa, cioè la voglia, si traspare la voglia di dare degli strumenti a chi lo legge per capire, per cominciare a capire, avere la grammatica per parlare delle questioni che vengono poste, appunto, cioè non dare una cartina prefatta, certo, roba del genere. Anche perché, appunto, non ammetto che appunto anch'io ho imparato tante cose, ma quando mi hanno parlato di come gestire la cosa, a parte che l'antologia sembrava anche il modo più sensato, proprio perché secondo me più si va avanti, più voleva affrontare queste cose, è impossibile trovare appunto una quadra o trovare, quindi la cosa migliore da fare è anche avere un po' di umiltà, nel senso di provare a buttare sul tavolo, è un po' un brainstorming questo libro qua, nel senso che prova, chiaramente magari conoscevo persone che sapevano un po' come la pensavano, per fare un discorso comunque chiaramente organico, però che prova ad essere anche un rilancio. Io ora non l'abbiamo ancora mai presentato veramente, perché appunto è uscito, si sono fatti un po' di dibattiti, se ne è parlato, e ogni volta comunque chiaramente riemergono progetti, idee che sul territorio vengono provate essere testate, di scuole, di cose, di progetti di co-ricerca, quindi è sicuramente uno step zero sarà provare a tessere un po' una rete di tutte queste realtà, questi progetti. Certo, fare rete orizzontale per riuscire a capirci, a raccapezzarsi un po' e andare avanti tutti insieme. Capirci qualcosa. Esatto. Che poi ci torna lì, dai, puoi dirlo, anche te che ci sei parecchio dentro, spesso, dai, ti ritrovi ogni tanto e non capisci cosa stia succedendo. Ti mancano le direzionali proprio, le direzioni. Sì. Va bene. Come diceva un bel articolo su Prismo di Pietro Minto, non si capisce più niente, era intitolato. Un titolo perfetto per questi nostri tempi, credo. Sì, c'è bisogno di capire un pochino e si può capire solo appunto dotandosi degli strumenti adeguati e non delegare appunto una cosa, l'ultima cosa che ti volevo dire, che è uscita in quelli che ho letto, è uscita spesso la questione della black box, no? Cioè la questione del fatto che sempre più spesso ci viene dato un servizio che insomma il servizio si riduce a un output che noi riceviamo senza sapere il funzionamento, da come è venuto fuori, da che processi, che regole ha seguito quel determinato algoritmo, come è venuto fuori. Poi questa è un'immagine, questa che è emersa un po' anche nell'immaginario recentemente, sia per motivi reali, nel senso che ci sono tecnologie che vengono utilizzate talmente complesse che non si riesce a proprio come funzionano le cose. Poi c'è un'altra questione che è anche quella della black box, diciamo, della proprietà, nel senso che noi spesso parliamo di come proviamo anche la ricerca stessa, prova magari a capire come funziona Facebook a farti delle cose, eccetera, quando semplicemente tu non hai accesso al codice che l'ha generato. Tra l'altro ci sono casi interessanti, cioè c'è un progetto di Facebook Tracking Exposed, che è un progetto che ha provato in base a vari bot di Facebook analizzati, eccetera, a capire i meccanismi di queste cose. Addirittura Facebook ha rimosso il plugin di Chrome che serviva per fare questa specie di esperimento collettivo. Quindi c'è un'intenzione evidenziata dalle stesse piattaforme di neanche di non concederti il codice, perché, ma neanche di bloccarti le tue eventuali tentativi di ricerca su queste black box, appunto, che sono quello. Sono black anche per motivi strettamente politici, ecco. Sì, non solo economici, ma anche molto politici. No. Trasuda politica e impegno, appunto, sia politico che sociale, tutte queste questioni qua. Ce n'è da lavorare, insomma, è da stare attenti. Bene, grazie mille. Grazie mille. Bene, ci vediamo. Dopo appuntamenti, sì. Questo weekend saremo prima mercoledì a Bologna, al Festival di Spoiler, e poi dopo andiamo a Torino, faremo tre presentazioni nel giro di 4 giorni, quindi chi c'è a Torino tra Salone, Cavallerizza e Politecnico ci può trovare, tutta sulla pagina tutti gli appuntamenti, poi chiaramente la prossima settimana siamo proprio a Firenze, alla Polveriera, al Festival del Sociale. Esatto. Sì, che fra l'altro sarà una giornata, prima lo dicevo. Prima di te, ci sarà la Carola Frediani, Autistici Inventati, quindi sarà una serata molto divertente, diciamola così. Molto interessante. Va bene, grazie mille. Grazie mille, Daniele. Se vuoi dare dove trovarvi, parte vabbè sul sito. Beh sì, stiamo uscendo sul sito, chiaramente si può acquistare sul sito di bit.com oppure in libreria, comunque si può trovare. Sul sito di? Sì, abbiamo una pagina Facebook con la quale pubblichiamo tutte le presentazioni, eccetera, e chi ce ne vuole proporre siamo sempre ben accetti di organizzare eventi o qualunque cosa. Ripetici il sito che non abbiamo sentito, c'è stato un attimo di... www.dieditore.com. Ok. E lì si trova la pagina, insomma. Esatto, sì. Bene, grazie mille. Va bene. Grazie ancora. Ciao. Grande Daniele. Bene, questa era. Quanto tempo abbiamo? Sono le 6:30. Tra poco dovremo lasciare il passo alla rassegna eventi. Ok, quindi non posso leggere questo piccolo estratto. No, va bene, ci sta. Lo leggerò un'altra volta. Se no, facciamo. Posso mandarti un pezzettino da 2 minuti? Vai. Così ti carichi. E poi estrattone. Vai. E poi dopo si va con la rassegna eventi. Cioè, dai. Si dai buona e ci si rivede alla rassegna eventi. Dai. Ci si sta? Vai. E vede dove sei. E vede dove na. E vede dove mamma. E tante ne avrò. Chi dubbi non ne ha, chissà cosa farà. Ivano, dimmi Ivano, tu quanti dubbi hai? Ivano, dimmi che dubbi c'ho. Ivano, il primo giorno di scuola. Ivano, e l'università. E vede dubbi ancora. Non ebbi dubbi solo su, guacu ru. Non ebbi dubbi solo su, guacu ru. Le mani andate a sala su, guacu ru. Non ebbi dubbi no. Non ebbi dubbi solo su, guacu ru. Irresistibilmente su, guacu ru. Inevitabilmente su, guacu ru. Non ebbi dubbi mai. We'll be right back. vedi tu, a vedi dove sei, a vedi dove sarei, di sarei dove, di dove non è, di sarei cosa fare, dimmi, dimmi, dimmi, dimmi, domani dove hai, nessuna verità, e poi così sicura, ci sono troppi dubbi, non farmi un problema, non hai più dubbi, sono solo, rock and roll, non hai più dubbi, sono solo, rock and roll, nemmeno quando è solo, solo, mi sono solo rock and roll, nemmeno dove sono solo rock and roll, non abito ben no, non abito dove sono solo rock and roll, irresistibilmente solo rock and roll, inevitabilmente solo rock and roll, non abito ben no. Radio Wombat. Da sempre. E obiettivamente. La migliore. Ci siamo? Va bene, io vi leggo un piccolo estratto. Eccoci. Ci siamo? Sì, sì, sì, ci siamo. Io sono sparito. Non sei sparito mai. Ah, ci sono. Oh, tu essere qua, grande dell'altro. Bene, io no, ci tenevo a leggere un piccolo estratto dall'introduzione, proprio scritto da Gambetta alla Tatarazia. Dai, io. E parto, via, subito. Zitto, chiedati Robert. Bravo Robert, sta zitto, non si può più sentire, basta. Titolo, due punti. Siamo sempre state macchine. Da anni il dibattito politico sulla tecnologia, in particolare sulla rete, è incagliato in un discorso dualistico tra apocalittici e integrati. Lo scorrere unidirezionale e monodimensionale nel tempo ci ha messo di fronte alla difficoltà di distinguere le opportunità offerte dal progresso tecnologico, dalla tecnicizzazione della vita e dall'antropizzazione brutale del nostro pianeta. La tecnologia, quindi la macchina, diventa allora il simbolo dell'annientamento dell'essere umano, nemesi della qualità della vita. Scriveva addirittura nel 91 Antonio Caronia: se nel mondo antico la macchina può essere ancora un simbolo dell'unità con la natura o il prodotto di una ingegnosità fuori dal comune, come gli automi semoventi di Erone Alessandrino, con l'arrivo della civiltà industriale, della modernità, quella lacerazione fra uomo e natura è ormai insanabile. Riusciremo mai a sfuggire all'alternativa falsa e paralizzante fra la demonizzazione della macchina e la sua esaltazione acritica? La dicotomia macchina-natura è centrale se vogliamo capire gli umori e i timori sull'avvento della robotizzazione e della pervasività della tecnologia nella vita. Nel suo celebre manifesto Cyborg, Donna Haraway parla proprio di dualismi quando afferma che questi sono sempre esistiti nella tradizione occidentale e sono stati tutti funzionali alle logiche e alle pratiche del dominio sulle donne, sulle gente di colore, sulla natura, sui lavoratori, sugli animali. Dal dominio, cioè, di chiunque fosse costruito come altro, col compito di rispecchiarsi, di rispecchiare il sé. Non siamo mai stati umani, siamo sempre stati ibridi cibernetici, siamo sempre stati cyborg. Non vi sarebbe qui lo spazio e durerebbe dal tema del testo approfondire il tema del postumano, ma è proprio dalle teorie del femminismo cyborg, dal quale emerge la critica alla natura umana come dispositivo di potere, che può emergere un'intuizione di prassi che sappia rompere con il dualismo sulle tecnologie, ripensando alle potenzialità liberanti che queste offrono, se spogliate dall'apparenza di forze neutrali e considerate invece prodotto sociale. È partendo dalla posizione dell'Harway che il collettivo internazionale Laboria Kubunix stende il manifesto xenofemminista per rilanciare l'azione tecnopolitica. Perché lo sforzo esplicito e organizzato per reindirizzare le tecnologie a fini politici progressisti di generi è così carente? XF vuole schiare strategicamente le tecnologie esistenti per riprogettare il mondo. In questi strumenti sono incorporati gravi rischi. Essi tendono verso gli squilibri, gli abusi e lo sfruttamento dei deboli. Piuttosto che far finta di non rischiare nulla, XF propone il necessario assemblaggio di interfacce tecnopolitiche reattive a questi rischi. In un interessantissimo e ancora attuale articolo pubblicato su JAP nel settembre del 2011, i Wiming si interrogavano sulla compresenza di pratiche assoggettanti e pratiche liberanti nell'uso della tecnologia, partendo dal caso Apple e dai suicidi nelle fabbriche Foxconn. Anche in quel caso si parlava di tecnoutopie e tecnopessimismi, di apocalittici e integrati, anche se su temi diversi dal rapporto uomo-macchina. Ma il discorso non cambia. Disinnescare l'out-out tra tecnofeticismo e tecnofobia significa smettere di pensare alla tecnologia come forza autonoma e riconoscendo che è plasmata da rapporti di proprietà e produzione e indirizzata da relazioni di potere e di classe. Come esempio viene citata l'eolofilia, un prototipo di macchina a vapore concepita nel primo secolo avanti Cristo dal matematico greco Erone di Alessandria, che avrebbe potuto anticipare la tecnologia a vapore di 18 secoli, ma che non trovò alcuna applicazione pratica in quanto la grande disponibilità di schiavi rendeva superfluo investire su questa tecnologia. Rimettere al centro il rapporto di forza è imprescindibile se si vuole affrontare il reale in tutta la sua complessità. Se può sembrare che ci siamo discostati dal tema centrale della pubblicazione, il dibattito sui dati non è esule da quanto appena detto. Lo sa bene chi ha avuto modo di studiare o fare ricerca in accademia sui temi di data analysis e machine learning, in tempi in cui l'istruzione tende a una neutralizzazione del discorso politico. Ehi, non va giù. Se non addirittura a un soggiogamento nei confronti del privato. È quasi impossibile, se non in pochi e fortuiti contesti, trovare spazio per la messa in discussione critica delle nuove tecnologie, dove si possa al tempo stesso progettare e fare ricerca in una direzione politicamente ragionata. Al tempo stesso il data scientist diventa sempre più una figura sponsorizzata dal mercato, da una parte, e demonizzata dall'altra, da chi mette a critica il ruolo coercitivo delle tecnologie di dominio. È possibile allora schierare strategicamente le tecnologie esistenti per riprogettare il mondo? Di certo la soluzione alla questione non la troverete direttamente in queste pagine, anche se l'intento è quello di fornire analisi che portino nella direzione di questa possibilità. La realizzazione stessa del testo che state leggendo è frutto di una rete di relazioni, di progetti di ricerca collettiva e critica distribuita sia territorialmente che virtualmente, e vuole costruire un esperimento di autoformazione e co-ricerca. Elaborare piattaforme collaborative e non estrattive, creare strumenti di indagine e inchiesta che svelino i meccanismi, spesso proprietari e oscuri, degli algoritmi che determinano le nostre vite, far emergere contraddizioni utili nel rivendicare il proprio ruolo di sfruttati, diffusi, rimettendo al centro la questione del reddito, sono state senz'altro percorribili. E qui finisce questo paragrafo che volevo leggere, spero vi sia piaciuto e vi abbia interessato, e se vi interessa appunto... Rimandiamo di nuovo al Festival della Teatro Sociale, che è straricco, veramente straricco quest'anno. Ci sono un sacco di appuntamenti e se ve lo potete permettere tutti e quattro i giorni venite, perché sono veramente belli, andate in polveriera. E beh, chiudiamo qui. Possiamo chiudere qui. Dagli un po' di corpo. Ok, yeah. Come on. Bello ragazzi, è stato bello come sempre. Insomma, come sono comportati i nostri registi? In assenza di speaker duri e puri? Ditecelo scrivendo a postawombat@insiberia.net. Infamateci. Bravo. Amateci. Odiateci. Odiateci. Basta. Ateci. Siateci. Terraformateci. Comunque, un dato di fatto è che siamo arrivati alle 18.42 e che tutto sembra come sempre, non sembrano esserci sostanziali cambiamenti nell'ambiente intorno a noi. Go how Paul Verry. Radio Wombat.